No, dove ho lasciato il cellulare? Forse in macchina? Do cacchio ho messo il cellulare? Eccolo. Fammi caricare adesso che ho un po' di campo. Fammi caricare almeno un po' di vento. Giuro che poi chiudo, ma ora proprio non posso. Devo leggere il messaggio che mi hanno appena scritto. È di chiara malafede darmi addosso. Non capisco questi codici scritti in rosso. Dammi tempo, sto finendo, sono alla fine. Ancora un attimo e poi chiudo, ti giuro, amore. Ma perché non ti sposi il tuo cellulare? Passi il tempo più con lui che con il tuo amore. Senza sembri un animale in una gabbia. Non hai pace e ti muovi come una scimmia. Oh, diglielo tu, che il tempo che perdi non lo ritrovi più. Oh, diglielo tu, fai pace con te stesso, Cristo Gesù. La scheda ti scheda, ricorda, non dimenticare di scaricare i tuoi ricordi da bruciare. Hai più password che sogni nel cuore. Senza wifi sei un uomo perso, non puoi volare. Ma perché non ti sposi il tuo cellulare? Passi tempo più con lui che con il tuo amore. Senza sembri un animale in una gabbia. Non hai pace e ti muovi come una scimmia. Come una scimmia senza pace. Oh, diglielo tu, diglielo tu, che il tempo che perdi non lo ritrovi più. Diglielo tu, diglielo tu, fai pace con te stesso, Cristo Gesù. Oh, diglielo tu, non lo ritrovi, che il tempo che perdi non lo ritrovi più. Diglielo tu, diglielo tu, oh, diglielo tu, Cristo Gesù, fai pace con te stesso, Cristo Gesù.